che arrivano i nonni, vanno a passeggio in città, sembrano ancora ventenni, malgrado la loro età. È una coppietta felice che fa piacere a guardare, sembran due giovani ancora, la nonna e il nonno come allora. Gli anni non contano più, c'è una seconda gioventù. Con i suoi baffi e pizzetto il nonnetto è un perfetto e distinto signore, sempre arzillo, sempre bello, fresco come un fiore. Dice la nonna di lui, era un incanto ai tempi suoi. Risponde il nonno, giammai la più incantevole era lei. Ma nel ritratto di un dì, fotografati vicini, erano belli davvero la nonna e il nonno insieme. Di lui era un incanto ai tempi suoi, risponde il nonno, giammai la più incantevole era lei. Ma nel ritratto di un dì, fotografati vicini, erano belli davvero la nonna e il nonno insieme.